sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Errore di valutazione, ammette l'amministratore delegato di Unicredit. Il titolo tra i peggiori a Piazza Affari, giù tutte le borse, Milano in forte calo. Il 3% del PIL europeo per fronteggiare la crisi. Questa sera la proposta italiana verrà portata da Tremonti all'Ecofin e parla anche il Papa. I soldi svaniscono, dice, la parola di Dio è solida. Intanto un'altra vicenda finanziaria sotto riflettori. Oggi dovrebbero arrivare le richieste dell'accusa nel processo Parmalat. Il PM è come una brutta vicenda di mafia. A gennaio gli scontri con la polizia per la discarica di Pianura, ora gli arresti, 35 in tutto, e fra gli indagati anche l'assessore alla protezione civile di Napoli. Va agli scopritori dell'HIV, il virus dell'AIDS, e del papilloma virus, il premio Nobel per la medicina 2008. Si è tolto la vita per dare un segnale, parla ad extra large il fratello del professore messinese che denunciava le collusioni fra politici e mafia. Addio Los Angeles, Bombay mi aspetta, Steven Spielberg divorzia dalla Paramount Pictures e sceglie Bollywood. Buongiorno da Alessandra Tedesco. E buongiorno da Simone Spezia. Una giornata molto pesante oggi, quella delle borse europee. Ne avete sentito parlare in Salvadanaio e del resto anche nei nostri collegamenti della mezz'ora con Che Borsa Fa. I segnali negativi erano già arrivati prima dell'alba da Tokyo. Deborah Rosciani, partiamo dai dati di borsa di oggi, da quel che sta succedendo. Sì, buongiorno. I cali in Europa sono ancora pesantissimi. Parigi sta perdendo il 6%, Francoforte il 5,46%, Londra il 5,16%. Allineata Milano al resto d'Europa perde il 5,21%, ha migliorato però la sua prestazione di un punto percentuale perché è arrivata a perdere più di 6 punti anche Milano, il MIPTEL meno 5,27. Nella bufera ci sono naturalmente, come so che racconterete tra poco, i titoli del settore bancario, ma anche per la verità i titoli energetici, i titoli legati alle materie prime per il forte ribasso che i prezzi in questo ambito stanno subendo, a cominciare dal petrolio che sta scendendo sotto i $90 al barile. Deborah, fra i titoli che vanno peggio c'è Unicredit è un po' la vicenda simbolo, almeno per quanto riguarda l'Italia, di quanto sta accadendo. Esattamente, anche se per la verità vi devo smentire perché rispetto al crollo d'apertura il titolo ha messo le contrattazioni solo a partire dalle 10, è arrivato a perdere il 15%, adesso è migliorato al punto da registrare un ribasso del 2,69%, per cui ha recuperato ampiamente le perdite di questa mattina, segno che il mercato ha digerito l'aumento di capitale da 6,6 miliardi varato nel consiglio di amministrazione straordinario organizzato ieri, per cui sta ritornando il sereno almeno su Unicredit, ma non su tutto il resto del settore bancario, perché invece gli altri titoli stanno scendendo pesantemente. Nel dettaglio, Deborah? Nel dettaglio il Banco Popolare perde il 10,60%, la Popolare di Milano l'8,39%, Intesa San Paolo meno 7,24%, e andando avanti troviamo anche il calo di UbiBanca del 5,36%, Monte dei Paschi meno 5,25%, per cui addirittura Unicredit adesso è il miglior titolo bancario di Piazza Affari. Grazie Deborah Rosciani. Dunque avete sentito, male i titoli bancari ma male un po' tutte le borse. Insomma, ci si sta rendendo conto che la crisi delle banche riguarda anche l'Europa. Sì, riguarda anche l'Europa. Le decisioni prese al vertice di sabato a Parigi fra Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia non sono servite dunque a calmare gli animi, e sempre più stati nel nostro continente corrono ai ripari. La politica ha dato la sua risposta, ma i listini non riescono a recuperare la fiducia perduta. Non è bastata l'approvazione del piano Paulson, passato da 700 a 850 miliardi di dollari, e non è bastato il vertice di Parigi, che pure ha messo a punto un piano in 5 punti. Sostenere le banche colpite dalla crisi, a livello nazionale ma in maniera coordinata fra tutti gli stati, punire i manager che hanno fallito e nuove regole contabili per le banche, ma soprattutto la richiesta a Bruxelles di più flessibilità sia sul fronte degli aiuti di Stato che su quello del patto di stabilità. Nel frattempo la corsa alla tutela dei depositi, oltre la soglia dei 20.000 euro già fissata dall'Europa, è cominciata. La prima tra i mogogni generali è stata l'Irlanda, poi è arrivata la Grecia, ieri l'annuncio del governo di Angela Merkel, garantiti tutti i conti bancari detenuti da privati per un ammontare che sfiora i 570 miliardi di euro. Un weekend da brivido per la Germania, svanito sabato il piano di salvataggio per IPO Real Estate. Per scongiurare il peggio la cancelliera ha messo in campo campo una linea di credito da 50 miliardi di euro, una mossa non ripagata dal mercato, dove il titolo perde oltre il 30%. Le ultime a dare l'annuncio sulla garanzia dei depositi sono state Svezia e Danimarca questa mattina. Per l'Italia il presidente Berlusconi ha assicurato che nessun cittadino perderà un euro e comunque da noi i depositi sono garantiti fino a 103.000 euro per depositante. Un capitolo a parte merita il caso del gruppo Fortis. Dopo essersi scambiate accuse reciproche, Belgio, Olanda e Lussemburgo hanno deciso di nazionalizzare ciascuna la propria parte. Belgio e Lussemburgo poi hanno girato rispettivamente il 75% e il 66% delle proprie quote ai francesi di BNP Paribas per poco meno di 15 miliardi. Ma l'idea di un fondo comune per il salvataggio delle banche europee tornerà sul tavolo dell'Eurogruppo questa sera. Giulio Tremonti proporrà l'istituzione di un fondo comune pari al 3% del PIL e c'è chi è pronto a scommettere che oggi la Merkel si mostrerà più morbida. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Deborah Rosciani, ti ho salutato con troppo anticipo prima. Sì. In realtà ci serve la tua competenza per capire bene in che cosa consiste questa garanzia che esiste già per i depositi italiani, insomma per i correntisti, per chiunque di noi può avere un conto corrente in banca. Certo, allora dobbiamo ricordare che nel nostro paese c'è un fondo interbancario di tutela dei depositi che è stato costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, oggi invece è un consorzio obbligatorio per tutte le banche italiane. Lo scopo di questo fondo è garantire i depositanti delle banche consorziate. Nel 1996 è stata recepita una direttiva comunitaria che era quella che prevedeva, per quello che riguarda tutti i paesi europei, che ogni paese disciplinasse delle garanzie per i correntisti per almeno 20.000 euro, come diceva anche il pezzo poco fa di Valeria De Rosa. Il nostro paese ha recepito questa normativa europea in maniera nettamente migliorativa, aumentando la soglia di protezione per correntisti e sottoscrittori di depositi presso le banche a 103.000 euro, a 103.291 euro per l'appunto per deposito. Questa protezione riguarda conti correnti bancari, assegni circolari, certificati di deposito nominativi, non quelli al portatore, in sostanza un salvagente di cui possono appunto a cui possono aggrapparsi tutti i correntisti italiani. Speriamo che naturalmente non ce ne sia bisogno. E speriamolo davvero. Deborah, grazie mille per questi chiarimenti. Si parla di crisi finanziaria, però diciamo lo spettro che c'è dietro è che questa crisi finanziaria poi possa portare ad un effetto pesante sull'economia reale, ossia ad una recessione. Una recessione è una parola che abbiamo sentito spesso nelle ultime settimane. Per capire tecnicamente quando un paese è in recessione si dice che il PIL deve avere una crescita negativa per almeno 2 trimestri consecutivi. E fin qui la tecnica, ma non ci sono solamente i dati macroeconomici. Vedi quel fabbricato? L'avevo comprato molti anni fa, il mio primo affare immobiliare. Venduto 2 anni dopo, ci guadagnai $800.000 netti. Molto meglio del sesso. Non la pensano più come Michael Douglas, alias Gordon Gekko in Wall Street, i rampanti della finanza, a Manhattan come a Londra. Complice la crisi, gli speculatori della City passano molto più tempo a casa sotto le lenzuola. Lo testimoniano le ordinazioni di Viagra al sito Chemist Direct, più 30% delle consegne nel miglior quadrato della borsa. È il primo dei 10 segnali rivelatori della recessione che il domenicale britannico Observer ha messo insieme, 10 indicatori forse più efficaci dei dati macroeconomici per capire quando un paese finisce in rosso. E così si scopre che negli ultimi mesi a Londra sono raddoppiate le adesioni alle pool car, sono cresciuti gli incassi del più economico fra gli svaghi, il cinema e delle catene di pizzerie low cost come Pizza Hut e Domino's Pizza. Si moltiplicano le iscrizioni alle carte fedeltà per gli sconti nei supermercati, crollano le vendite di uova organiche, non si chiedono più referenze a chi prende in affitto una casa purché paghi. E poi si tornano a vendere le cravatte per il moltiplicarsi dei colloqui di lavoro e i medici registrano un grande aumento di emicranie, mal di stomaco, insonnia. Si riascoltano i cantanti di protesta come Morrissey e si cercano nuove forme di introito. In Scozia la polizia sente uno strano odore di cannabis intorno a molte piccole fattorie. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Insomma, anche elementi originali per comprendere se un paese è veramente in recessione o meno. Sì, ecco, dall'assoluto profano al sacro, nel senso che sulla crisi è intervenuto anche il Papa. Parlando a braccio questa mattina all'apertura dei lavori del Sinodo dei Vescovi, Benedetto XVI ha detto: vediamo adesso nel crollo delle grandi banche che i soldi scompaiono, sono niente. Tutte queste cose che sembrano vere in realtà sono di secondo ordine. Lo ricordi, ha sottolineato ancora Ratzinger, chi costruisce solo sulle cose visibili come il successo, la carriera e i soldi. E poi ha aggiunto: i soldi svaniscono, la parola di Dio è solida. E a proposito di parola di Dio, più avanti torneremo a parlarne, perché è iniziata ieri la lettura in televisione della Bibbia, protagonista proprio Ratzinger e tra l'altro Roberto Benigni. Noi ci concediamo invece adesso una breve pausa pranzo con i consigli del nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di cuoco questa settimana è sicuramente dedicato al tartufo, perché potrete andare benissimo a fare un weekend, magari rimanendo anche a mezzogiorno, nelle Langhe. Le Langhe sicuramente sono le più conosciute per quanto riguarda il tartufo bianco, oltre appunto altre aree d'Italia, ma queste sicuramente sono le più battute. Allora io vi do un indirizzo davvero molto importante, che è il Cascinale Nuovo. Il Cascinale Nuovo è Isola d'Asti, è della famiglia Ferretto, dove viene preparata una cucina che ha nella tradizione delle materie prime il suo forte, ma anche un pizzico di creatività di Walter in alcuni suoi piatti. E qui potrete veramente mangiare il meglio di piatti combinati con il tartufo, ma non solo. Ad esempio un tortino di zucca gialla e parmigiano reggiano con tartufo bianco d'Alba, oppure ancora i tagliarin al tuorlo d'ova con tartufo, risotto con tartufo, ma anche altre cose che sicuramente sono gustose. Potrete sicuramente mangiare la giardiniera di verdure al pomodoro con ventresca di tonno e uovo affogato, ma rimettetevi nelle mani dei Ferretto, sicuramente vi consiglieranno il meglio di un menù che è sì grande ma anche della grandissima qualità. Ottima la cantina, soprattutto dei vini rossi del Piemonte, quindi giusto da abbinare con il tartufo. Lo ripeto, il Cascinale Nuovo, Isola d'Asti, in provincia di Asti. Buona giornata dal vostro gastronauta. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. In netto calo tutte le borse, sui timori che la crisi finanziaria contagi il vecchio continente, Piazza Affari perde quasi 6 punti percentuali e vanno male tutti gli istituti di credito. L'amministratore delegato di Unicredit Profumo ammette errori di valutazione. Il titolo, sospeso in mattinata per eccesso di ribasso, ora è il migliore tra i bancari. Intanto i paesi europei si muovono, per il momento in ordine sparso. La Merkel dà il via al salvataggio di Ipo Real Estate, che garantisce i depositi bancari. Stessa mossa da Danimarca e Svezia. Questa sera all'Ecofin Tremonti proporrà di destinare il 3% del PIL europeo per fronteggiare la crisi. Sulla crisi interviene anche il Papa: con le banche i soldi scompaiono, l'unica cosa solida è la parola di Dio. HIV e papilloma. Per la scoperta di questi due virus è stato assegnato oggi il premio Nobel della medicina 2008. I vincitori sono il tedesco Harald Zurhausen e i francesi François Barsinoussi e Luc Montagnier. Arrivano gli arresti per gli scontri avvenuti a gennaio fra la polizia e chi protestava per la discarica di Pianura. 35 le persone finite in manette, ai domiciliari anche l'assessore alla protezione civile del comune di Napoli, Giorgio Nunez, che si dimette. Aveva denunciato i rapporti tra mafia e politica, ma è stato lasciato solo. Ad Ixelles parla il fratello del docente universitario messinese che si è tolto la vita giovedì. Ora l'intervista. Dunque, l'avete appena sentito, per anni aveva combattuto la mafia, era un docente, era chiamato, così definito, il professore antimafia della Messinese. Adolfo Parmaliana, 50 anni, si è ucciso giovedì scorso. Si era sentito abbandonato? Il racconto del fratello Biagio Parmaliana nell'intervista di Raffaella Calandra. Credo di sì, sia stato un gesto eclatante contro le istituzioni, una parte dello Stato, una parte della magistratura, a cui probabilmente aveva dato fastidio, che invece lo aveva sempre deriso, schernito, isolato, additato. L'avevano perfettamente scientificamente isolato e questo lo aveva molto amareggiato, e credo sia proprio la sua risposta. Lui ha giocato la sua vita perché questo stato di silenzio dello Stato, della magistratura sulle vicende che lui aveva denunciato, ma comunque sulla ricerca di legalità per il territorio in cui lui abitava, lo Stato aveva scelto il silenzio e lui così ha voluto protestare. Questo è il motivo forte del suo gesto. A ciò si aggiunga che alla fine, mentre lui aveva sempre denunciato malaffare, era stato rinviato a giudizio per un volantino politico e per un articolo scritto in cui lui riportava fatti che erano nel decreto di scioglimento antimafia del comune dove lui risiedeva. Questo era proprio il colmo. Allora lui individuò, questo me lo disse giorni fa, ma non potevo mai pensare, quale sarebbe stata la sua reazione, individuò un complotto con la magistratura, la procura di Barcellona, gli esponenti della magistratura inquirente del nostro distretto per colpirlo. Lo vide come un atto di rappresaglia, me lo disse domenica sera nel mio nostro ultimo incontro, lo disse anche ai suoi avvocati, ma chiaramente non potevamo nessuno pensare che poi andasse a questo gesto eclatante. Avvocato, suo fratello le ha lasciato una lettera? Così pare, ma ancora è tutto sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica di Patti. Mio fratello scelse Patti perché non era Procura di Barcellona. Di questo io ne sono sicuro, che lui scientificamente fece questa scelta. Ci faccia un esempio di quello che le raccontava suo fratello. Che cosa vuol dire essere isolato? Innanzitutto nel suo partito, lui fu giovane tesserato al Partito Comunista, PDS, DS, beh, l'establishment messinese lo viveva come una sopportazione, tranne Tanino Santagati, il senatore Lumia. L'isolamento poi dalle istituzioni, siamo in Sicilia, siamo in piccoli centri, è facile far circolare quello lì, quello che denuncia, quello che non ci va a fare, tutto era colpa sua quando non si poteva fare, non si voleva fare, perché c'era quello lì. E poi anche tanti amici, tanti falsi amici che poi magari saranno stati lì al funerale. Che cosa ha denunciato suo fratello? Per lui il concetto di legalità, di trasparenza della pubblica amministrazione era notevole. Iniziò negli anni 93-94, iniziò a fare dossier inviandoli a tutti gli organi dello Stato, anche al Presidente della Repubblica. Lui abitava a Termeliatore e denunciava la mala amministrazione di questo centro e di questo Interland. Erano indirizzati tutta la Procura della Repubblica, dove in un primo momento lui si fidò del procuratore Canali, denunciava principalmente la mala amministrazione. Cioè piccoli, grandi soprusi, ad esempio, piccoli, non so. Esatto, lei dice bene, dai piccoli ai grandi, dalla gara che non ci convinceva dove c'era stata una turbativa al piccolo abuso. Questo chiaramente dava molto fastidio. Lui tutto questo lo faceva come battaglia civile, da semplice cittadino o poi, anche... Guardi, lui lo fece principalmente da semplice cittadino, poi fu anche segretario dei DS, un segretario anomalo perché, le ripeto, non era ben voluto dall'establishment del suo partito. Poi fu candidato al sindaco e la cittadinanza non lo accettò, ma continuò a produrre questa attività di lotta civile. Il comune dove lui ha fatto questa battaglia è stato sciolto per infiltrazione mafiosa nel gennaio 2006. Il fatto che lo faceva impazzire, che gli dava la prova che qualcosa non funzionava nelle istituzioni della provincia di Messina, cioè a uno scioglimento antimafia sarebbe logico, un'imputazione di qualcuno deve pure esserci, allora abbiamo giocato con lo scioglimento. Anche lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Terme Vigliatore in qualche modo ricalca quelle denunce che suo fratello aveva portato avanti. Tutta una serie, sì, di illegittimità, illecità, di presunte infiltrazioni che lui forse aveva denunciato. Fratello possibilmente per qualcuno è un pazzo, ma non lo era, mi creda, è stato lucido. Mio fratello era ordinario di chimica industriale. Dicono i suoi colleghi che era uno scienziato, a 50 anni è morto, poteva fare 20 anni di carriera e li ha buttati per queste grandi verità. Doveva avere un minimo di fondamento, altrimenti veramente non si butta una famiglia, 20 anni di carriera. Fu il ministro Pisani a sciogliere questo consiglio, non un ministro del centro-sinistra. Suo fratello si era dedicato alla ricerca, diciamo, di tutto ciò che non funzionasse nel suo paese. E ogni domenica a leggere le delibere, ogni domenica a valutare gli atti del suo comune in particolar modo, ma anche un po' dell'Interland. Aveva mai subito minacce? No, minacce esplicite, no, qualche battuta buttata qua e là, ma nulla di più. Invece lui mi diceva proprio negli ultimi incontri che in modo intelligente quello che lui individuava come una cupola all'interno di pezzi dello Stato lo portavano a eliminarlo con questo isolamento, mandandolo sotto processo per un volantino politico, mentre chi lo aveva diffamato erano stati archiviati o assolti per critica politica. Chi riguardava questo volantino? Era attinente allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa. E in paese invece e all'interno dell'università questa sua attività antimafia aveva avuto delle ripercussioni? Nell'università era amato, stimato, nel paese sì, il gruppo di potere, il gruppo di comando, chiunque lo aveva solo isolato, additato, umiliato e tenuto fuori dalla vita sociale. Lui ormai viveva in paese con pochissimi amici, gli amici veri. Eravamo convinti che sarebbe stato sconfitto, ma non pensavamo mai a questo gesto, a questa fine. Ma gli amici veri, io che conosco la giustizia dicevo lascia perdere. E lui che cosa vi rispondeva? Oh, per lui le manderò scritti del 1998 di mio fratello che diceva cerco lo Stato e a me interessa solo lo Stato. E questa era l'intervista di Raffaella Calandra a Biagio Parmaliana, fratello del professore antimafia Adolfo Parmaliana, che si è ucciso perché appunto si è sentito solo. Dalla mafia alla camorra. Di ieri la notizia dell'ultimo agguato. A Casal di Principe, nel Casertano, è stato ucciso un uomo di 60 anni, Stanislao Cantelli, incensurato, reo, secondo i camorristi, di essere zio del collaboratore di giustizia Luigi Diana. I clan hanno dunque voluto mandare un messaggio forte proprio nel momento in cui lo Stato ha inviato i militari a presidiare la zona. E allora facciamo una mappa dei clan della zona, Daniele Biacchessi. I casalesi sono i re criminali dell'intera provincia di Caserta. Quello è un territorio vastissimo e densamente popolato e la loro infiltrazione, lenta ma inesorabile, si è prodotta da almeno 28 anni, cioè dai primi anni 80, quando i casalesi hanno costruito relazioni con i principali gruppi criminali internazionali, cacciato i luogotenenti di Raffaele Cutolo dalle loro terre. I loro affari oggi sono vasti, traffico di rifiuti tossico-nocivi attraverso il sistema di discariche tramite prestanome incensurati, traffico di sostanze stupefacenti, ogni tipo di droghe, possiamo dire, traffico di armi, controllo delle attività lavorative degli immigrati extracomunitari, specie se senza permesso di soggiorno, impiegati nella raccolta di frutta e nelle centinaia di piccoli capannoni gestiti in primis da artigiani. Il cuore logistico dei casalesi resta naturalmente Casal di Principe, la cui amministrazione comunale è stata più volte nel passato commissariata per infiltrazioni mafiose. Il gruppo è inoltre radicato a Mondragone, Marcianise, Maddaloni, a Caserta città, specie nell'Interan, Castel Volturno, luogo dove si è consumata pochi giorni fa la strage di immigrati, e tutto il territorio a nord di Giuliano. Questa in sostanza è la mappatura del clan più potente delle cosche campane. Il potere criminale è stato certamente scalfito dagli arresti dei latitanti, dalla risposta dello Stato, ma resta ancora forte, fortissimo, grazie ai contatti accertati con funzionari infedeli dell'amministrazione pubblica, uomini delle istituzioni e un'omertà diffusa che permette appoggi logistici soprattutto ai killer. E come sentivamo da Daniele Biacchessi, uno dei comuni dove c'è maggiore concentrazione di camorra è Castel Volturno, e proprio oggi il sindaco di questo paese ha fatto una dichiarazione importante, Simone. Sì, il sindaco ha detto che Castel Volturno è una polveriera che rischia di esplodere da un momento all'altro per le tensioni sociali, mentre la criminalità minaccia gli amministratori comunali, nonostante la presenza dell'esercito e i rinforzi alla polizia. Spazio ora al cinema. Paramount e DreamWorks hanno sancito il divorzio, un divorzio annunciato perché a Hollywood se ne parlava da tempo. Di scena degno del grande Steven Spielberg. Il regista americano ha ufficialmente divorziato dalla Paramount Pictures e per i prossimi 5 anni, con la sua compagnia di produzione DreamWorks, lavorerà per Bollywood. La crisi in cui versa l'economia americana colpisce anche l'industria del cinema, stelle strisce e i fondi per produrre i film diventano limitati. In questa situazione colossi come la Paramount e la MGM si trovano in difficoltà. Così Spielberg, che ha fondato nel 94 la DreamWorks, da anni partner della Paramount, per salvarla dalla crisi ha deciso di lavorare con il gruppo indiano Reliance. Controllato da Anil Ambani, fratello minore dell'uomo d'affari più ricco dell'India, il colosso delle telecomunicazioni, proprietario tra l'altro di stazioni radio e studi di produzione, investirà oltre 1,2 miliardi di dollari per creare una nuova società, partecipando al 50% della DreamWorks. L'accordo prevede la realizzazione di oltre una trentina di film. Da oggi dunque Spielberg e il suo cinema saranno finanziati e prodotti soprattutto con i soldi di Bollywood, il segno dei tempi. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. I paesi europei contro la crisi, consultazioni in corso, si va verso una dichiarazione congiunta per dare fiducia ai mercati e garantire i risparmiatori. Fino ad ora si sono mossi in ordine sparso, la Merkel ha dato il via al salvataggio di Hypo Real Estate e garantisce i depositi bancari. Stessa mossa da Danimarca e Svezia. Questa sera all'Ecofin Tremonti proporrà di destinare il 3% del PIL europeo per fronteggiare la crisi. Interviene anche il Papa, con le banche i soldi scompaiono, l'unica cosa solida è la parola di Dio. E sono in netto, come avete sentito, in netto calo tutte le borse europee, con Piazza Affari che perde circa 6 punti percentuali. Negativi tutti i titoli degli istituti di credito. L'amministratore delegato di Unicredit Profumo ammette errori di valutazioni. Il titolo, sospeso in mattinata per eccesso di ribasso, ora è il migliore fra i bancari. HIV e papilloma. Per la scoperta di questi due virus è stato assegnato oggi il premio Nobel della medicina 2008. I vincitori sono il tedesco Harald Zurhausen e i francesi Françoise Barré-Sinoussi e Luc Montagnier. Processo di primo grado per il crack Parmalat a Palazzo di Giustizia a Milano. Oggi le richieste dell'accusa per Calisto Tanzi e altri 7 imputati. Arrivano gli arresti per gli scontri avvenuti a gennaio tra la polizia e chi protestava per la discarica di Pianura. 35 le persone finite in manette, ai domiciliari anche l'assessore alla protezione civile del comune di Napoli, Giorgio Nunez, che si dimette. Aveva denunciato i rapporti fra mafia e politica. XL, il fratello del docente universitario messinese che si è tolto la vita giovedì scorso, ha detto si è ucciso perché l'avevano lasciato solo. Già la sentivate dai titoli, è appena arrivata una sorta di indiscrezione da ambienti di Palazzo Chigi e della Farnesina, ossia dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero degli Esteri. Si apprende che è in atto in queste ore una consultazione tra i leader europei per mettere a punto una dichiarazione di sostegno ai mercati finanziari, insomma per dare fiducia ai mercati e garantire i risparmiatori. E questa mattina di crisi finanziaria ha parlato il Ministro degli Esteri Franco Frattini, sentiamo cosa ha detto. L'Europa darà una risposta, io credo, molto presto, e io credo che la risposta giusta sia la linea data dai 4 paesi europei, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, che hanno detto la soluzione è sostenere gli operatori finanziari, la soluzione è dare fiducia ai risparmiatori, ma anche dire con grande chiarezza che chi ha sbagliato deve pagare. E sull'ipotesi di un fondo comune europeo per bilanciare la crisi? Noi siamo d'accordo, vi sono dubbi in altri paesi, anzitutto la Germania. Io credo che quello che è importante è che ogni Stato nazionale possa farlo con una sostanziale sospensione di quelle norme europee sugli aiuti di Stato che hanno finora impedito di fare ad esempio interventi di garanzia sulle banche in difficoltà, cosa che invece in questo momento è giusto che si possa fare. L'ha fatto la signora Merkel in Germania, l'hanno fatto in Irlanda. Io credo che ci debbano essere regole comuni. Ogni paese poi stabilisce se farne uso o no, ma noi dobbiamo avere un medesimo principio, perché altrimenti ogni Stato si segue i suoi criteri e questo non va bene. E di crisi finanziaria si parla anche alla conferenza economica del Partito Democratico, che è in corso a Roma. In attesa del discorso di Veltroni, che sarà questo pomeriggio, stamattina ha parlato il ministro ombra dell'economia Pierluigi Bersani. Sentiamolo al microfono di Andrea Viali. Non siamo riusciti a far dire al governo una parola, nemmeno in Parlamento, su tutto quello che sta succedendo. E di più, a differenza che in ogni altro paese, questo governo non sente il bisogno di discutere nelle forme opportune con i leader della maggioranza e l'opposizione sulla situazione. Noi abbiamo un avvitamento dell'economia reale che ci rende più deboli anche davanti alla crisi finanziaria. E questo avvitamento si chiama prezzi, consumi, salari, pensioni e produzione. È un circolo vizioso. Questa inflazione si è lasciata scaricare sui redditi medi e bassi, i consumi sono calati, questo ha indebolito la nostra economia e le imprese che lavorano sul mercato interno, questo sta producendo cassa integrazione, riprese della disoccupazione e a loro volta questi producono minori consumi, quindi bisogna intervenire. Noi abbiamo elencato una serie di proposte che riguardano interventi di natura fiscale di detrazione su salari, retribuzioni, pensioni, che riguardano iniziative incisive per portare molti soldi in tasca ai consumatori prendendoli immediatamente dai settori protetti, con le iniziative di liberalizzazione. Abbiamo sollecitato l'attuazione di misure che abbiamo elencato nel dettaglio per rianimare l'economia reale. Insomma, siamo lì con le nostre proposte a combattere e a denunciare il fatto che questo famoso governo decisionista fa il decisionismo per le allodole, perché sui temi veri, quelli veri, di decisione non è arrivata neanche una. Ma cosa pensano gli italiani di questa situazione? Secondo un sondaggio di Renato Mannheimer, hanno paura, ma la corsa allo sportello è scongiurata. Lo spiega lo stesso direttore dell'ISPO, al microfono di Anna Marino. Questa indagine mostra che la gente ha paura. Più dell'80% degli italiani è molto preoccupato per la situazione economica generale, per quella mondiale, e una quota solo poco inferiore preoccupata anche per la propria famiglia. Per la verità, per se stessi, per la propria famiglia, si è meno preoccupati perché per l'economia in generale, per il solito fenomeno che ognuno di noi pensa di cavarsela, cioè va tutto male ma io in qualche modo me la cavo. Però c'è grande preoccupazione. Al tempo stesso però c'è fiducia nelle banche, cioè la gente dice l'economia va male ma io della banca di cui sono cliente posso fidarmi, il che è un dato positivo perché evita la temuta corsa agli sportelli. Per quanto riguarda le categorie degli italiani, che cosa avete registrato? I laureati hanno più timore ma al tempo stesso più fiducia. Il timore maggiore è nell'età centrale, dal punto di vista lavorativo, cioè dai 35 ai 45-50 grosso modo. Le donne hanno un pochino di più di timore dei maschi. La maggior parte degli italiani non ha investimenti diretti in azioni, solo grosso modo il 30% ce l'ha, e questi, che quelli che hanno investimenti diretti, sono ovviamente molto più preoccupati. Il processo di primo grado a Milano per il crack Parmalat oggi si conclude. La requisitoria del PM, dunque le richieste di condanna per Callisto Tanzi e altri 7 imputati. In diretta da Palazzo di Giustizia di Milano, Raffaella Calandra. Raffaella Calandra, mi raccomando, breve. Buongiorno, la banca sapeva, lo ripete più di 20 volte almeno l'aggiunto Francesco Greco, mettendo in fila uno dietro l'altro gli elementi che secondo la procura proverebbero come gli istituti di credito, in particolar modo Bank of America, fosse a conoscenza dell'effettivo stato della Parmalat, di cosa fosse Bonlat, cioè una scatola vuota, dei fondi offshore e che i bilanci del Brasile fossero aggiustati. E tutto questo per una reciproca convenienza fatta per l'una di una cresta dell'1%, stima la procura, e per l'altro il gruppo di collecchio del prezzo dell'omertà sull'effettiva situazione finanziaria. Questa è come una brutta storia di mafia in cui c'entrano anche le banche, dice chiaro e tondo Greco, ricostruendo tra segreti e raggiri uno dei passaggi più delicati che sottendono al crack da 14 miliardi del gruppo Parmalat, ossia il ruolo di Bank of America. E nella requisitoria al processo per aggiotaggio, ricordiamolo, entra anche il gossip con la love story tra il nuovo proprietario di Parmalat Brasile, Marcus Elias, e la top model Naomi Campbell. Nel pomeriggio Greco riprenderà la requisitoria per poi formulare le richieste per Callisto Tanzi e altri 7 imputati. Ed è quelle che attendiamo, e sono quelle, insomma, che attendiamo per il pomeriggio. Filmati e fotografie hanno permesso alla polizia di identificare i responsabili degli scontri nella discarica di Pianura, scontri avvenuti 8 mesi fa. Dopo mesi di indagini, la svolta: la questura di Napoli ha eseguito 35 ordinanze di custodia cautelare per gli scontri avvenuti lo scorso mese di gennaio a Pianura durante la protesta contro la riapertura della discarica. Destinatari dei provvedimenti sono soprattutto tifosi dei gruppi ultra più violenti, ma anche alcuni politici locali, coinvolto l'assessore comunale alla protezione civile e ai cimiteri Giorgio Nunes agli arresti domiciliari. Dopo l'arresto, Nunes si è autosospeso dall'incarico. Gli inquirenti hanno individuato anche gli autori delle minacce ai commercianti della zona, che all'epoca dei fatti furono costretti per giorni a chiudere le attività. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere alla devastazione, all'interruzione di pubblico servizio. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Bambini contesi e portati all'estero da uno dei due genitori. Il Ministero degli Esteri ha presentato oggi un vademecum. Francesca Malaguti, ti abbiamo sentita prima parlare col ministro Frattini di crisi economica, ma oggi Frattini ha fatto una conferenza stampa per parlare di questo. Qualche dettaglio? Sì, un dettaglio molto interessante e forse inaspettato è che la maggioranza dei casi di sottrazione di minori italiani avviene in Europa, mentre l'incidenza della migrazione dei paesi islamici, contrariamente a quanto si possa pensare, è ancora bassa, inferiore a un terzo dei casi. Questo è paradossale se si pensa che nel territorio dell'Unione Europea valgono delle convenzioni come quella dell'AIA o il documento Bruxelles II che dovrebbero garantire regole comuni per controllare il fenomeno. Abbiamo chiesto al ministro Frattini il perché e ha risposto che i problemi sono due. Primo, che ogni Stato ha la sua maggioranza magistratura e spesso le sentenze sulla sorte di un bambino entrano in conflitto e di solito i paesi si sentono tenuti a difendere la decisione del proprio tribunale. Secondo le carte internazionali che tutelano i minori contesi sono spesso poco conosciute e tenute in considerazione dagli stessi giudici. Di contro i casi di minori sottratti sono in crescita, dagli 89 del 98 si è passati ai 266 attuali, anche per il numero crescente di separazioni e divorzi. La guida presentata oggi dal ministro dà indicazioni molto pratiche a genitori e funzionari del settore. Per fare qualche esempio, alle coppie di nazionalità miste si raccomanda di informarsi sulle norme di affidamento dei figli nel paese del coniuge ed eventualmente si raccomanda di far sottoscrivere all'altro genitore una clausola nel contratto di matrimonio sulla libertà di movimento dei figli. È tutto. Grazie, grazie Francesca Malaguti. Ora diamo invece la parola virtualmente a Roberto Benigni. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse io il custode di mio fratello?» Come avrete intuito, non sta leggendo la Divina Commedia questa volta, ma la Bibbia, insieme a decine di personaggi noti. Partecipa infatti alla maratona televisiva su Rai Educational 2 della lettura appunto della Bibbia, iniziata ieri e che terminerà sabato 11 ottobre. L'avvio, trasmesso su Rai 1 ieri sera con circa 3 milioni e mezzo di spettatori, è stato dato dal Papa. Libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Le 13.49 minuti, GR Extra Large, queste le notizie della giornata. I paesi europei contro la crisi verso una dichiarazione congiunta per dare fiducia ai mercati. Germania, Danimarca e Svezia, come l'Irlanda, garantiscono i depositi bancari. Interviene anche il Papa: con le banche i soldi scompaiono, l'unica cosa solida è la parola di Dio. E sono in netto calo tutte le borse europee, con Piazza Affari che perde circa 6 punti percentuali, negativi tutti i titoli degli istituti di credito. L'amministratore delegato di Unicredit Profumo ammette errori di valutazione. HIV e papilloma. Per la scoperta di questi due virus è stato assegnato oggi il premio Nobel della Medicina 2008. I vincitori: il tedesco Hausen, i francesi Barr, Sinussi e Montagnier. Processo di primo grado per il crack Parmalat. Oggi le richieste dell'accusa per Callisto Tanzi e altri 7 imputati. 35 persone in manette per gli scontri di gennaio alla discarica di Pianura. I domiciliari, anche l'assessore alla protezione civile del comune di Napoli, Giorgio Nunez. Lo avete sentito, dal riepilogo delle nostre notizie è stato assegnato questa mattina a Stoccolma il Nobel per la medicina. La parola alla nostra Nicoletta Carbone, che ogni giorno conduce alle 11 Essere e Benessere. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno Alessandra, buongiorno Simone. Il Nobel per la medicina di questa edizione viene assegnato a 3 virologi. Il premio è stato dato ad Harald Zürhausen per il suo lavoro sulle cause del cancro della cervice e a Françoise Barré-Sinussi e a Luc Montagnier per la scoperta del virus che causa l'AIDS. Quindi dei virus di cui noi tutti abbiamo sentito parlare. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Remuzzi, che ci aiuta a commentare questa notizia, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Buongiorno professore. Buongiorno. Abbiamo il Nobel. François Barré-Sinussi e Luc Montagnier hanno scoperto il virus dell'immunodeficienza. 25 anni fa, precisi, Montagnier scopriva che la causa dell'AIDS era il virus dell'HIV. È stato un momento per cui il mondo ha tirato un respiro di sollievo. L'AIDS era una malattia misteriosa, giovani adulti senza difese immunitarie avevano infezioni mai viste prima e morivano, e nessuno sapeva il perché. Da allora al mondo si sono infettati 60 milioni, ne sono morti 25 milioni, adesso le persone infette nel mondo sono 33 milioni, e 2 milioni e mezzo si sono infettati solo nello scorso anno. Più di 2 milioni sono morti. La scoperta di Montagnier è fondamentale perché abbiamo potuto, attraverso questa scoperta, capire con che nemico avevamo a che fare. Abbiamo potuto sviluppare dei farmaci, abbiamo potuto fermare l'epidemia e adesso c'è persino il modo di prevenirla. Non meno importante il contributo di Harald Zurhausen, infatti il premio Nobel lo dimostra, nell'individuazione di una delle cause del cancro della cervice, l'HPV, l'Human Papilloma Virus. Certo, Harald Zurhausen è stato professore, lui si è formato a Düsseldorf, è stato professore del Centro di Ricerche Cliniche per il Cancro a Heidelberg in Germania, una grande università. Quello che succede è che loro sono andati contro la visione prevalente che il tumore fosse dovuto a cause diverse dai virus. Loro hanno trovato nel tumore la presenza di virus, hanno potuto identificare questo virus, hanno visto come era fatto e hanno legato in modo assoluto il virus a 100 tipi di virus diversi al 70% dei casi di tumore. Ce ne sono tanti appunto di questi virus. Loro hanno trovato i primi tre e questo ha aperto la strada ha tantissime ricerche. Il cancro del collo dell'utero è il secondo tumore femminile nel mondo, dopo quello del seno, colpisce soprattutto i paesi poveri, l'80% degli 500.000 casi all'anno, questa è una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono nei paesi poveri. In America ci sono 10.000 casi all'anno, in Italia 3.500. Questa scoperta è fondamentale per aver capito al di là del problema del collo dell'utero, e già questo sarebbe molto, che forse tanti altri tumori hanno un'origine virale, e saperlo potrebbe consentirci di sviluppare delle terapie diverse, per esempio i vaccini, come abbiamo il vaccino per tante malattie virali, per il morbillo per esempio, o abbiamo avuto per la poliomielite. Professor Remuzzi, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci aiutato a commentare questa notizia, le auguro una buona giornata. Grazie. E per il momento è tutto, vi ripasso la linea. Grazie a Nicoletta Carbone, abbiamo il tempo per una notizia di cronaca diffusa questa mattina. Sì, è morto ieri sera l'ex presidente della Corte Costituzionale, Leopoldo Elia. Aveva 82 anni, era stato l'11° presidente della Consulta, aveva avuto anche un ruolo attivo in politica, prima con la DC, poi nel Partito Popolare e nella Margherita. Nel governo Ciampi del 93 era stato ministro delle riforme istituzionali. E ora, come ogni lunedì, la nostra rubrica Dizio Radio. C'è un argomento che è stato piuttosto centrale nei giorni scorsi, tantissimi li abbiamo sentiti, ma il concetto di commissione di vigilanza RAI, l'avrete sentito diverse volte, che cos'è, a cosa serve? Noi naturalmente non entriamo nel merito del blocco della situazione, della nomina del presidente, le questioni politiche, ma questo spazio, come sapete, serve un po' a tradurre certi concetti, certe parole che magari si danno per scontate e non sempre sono chiari. E chiamo in mio aiuto naturalmente Giuseppe Busia, giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 Ore. Ciao Giuseppe. Ciao Roberto. Per chiederti che cos'è questa, che importanza ha, visto che se ne parla tanto e sembra una questione così cruciale, no? La nomina del presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI. Quindi possiamo capire che è una commissione che vigila sulla RAI. Perché parlamentare? Perché in Parlamento? In Parlamento perché nel passaggio, quando è stata istituita, prima il controllo era esclusivamente del governo e questo non garantiva il necessario pluralismo. C'erano state diverse sentenze della Corte Costituzionale a partire dal 60 e alla fine nel 75 si arriva alla costituzione di questa commissione, quindi il controllo sulla televisione, che allora era l'unica, e sulla radio, sulla RAI, quindi radio e radiotelevisione, passa dal governo, che è espressione della sola maggioranza politica, al Parlamento e quindi al controllo da parte di tutti i partiti, di tutte le forze politiche. Questo proprio per garantire il pluralismo. La commissione, come giustamente tu dicevi, è una commissione parlamentare, quindi formata da membri del Parlamento, ed è una commissione bicamerale, quindi formata sia da senatori che da deputati. Sono 40, vengono nominati dai presidenti del Senato e della Camera in proporzione ai gruppi e costituiscono appunto la commissione bicamerale. Quali compiti ha? Sì. Il più importante, quello che è sotteso anche alla discussione di questi giorni, è sicuramente la nomina di 7 consiglieri del Consiglio d'amministrazione su 9. E poi il presidente, che deve essere, diciamo, la sua nomina è in realtà del Ministro dell'Economia, però non è efficace fino a che non ottiene il parere favorevole di 2/3 della Commissione di Vigilanza, quindi una maggioranza qualificata e quindi la necessità che ci sia un accordo tra maggioranza e opposizione. Quindi una questione un po' complessa, ecco perché è così sempre un po' bloccata questa situazione. In due parole proprio lo scopo, la funzione? è quella di vigilare sulla RAI, verificare che sia garantito il pluralismo, dare degli indirizzi generali, a volte troppo spesso entrare molto nel merito della gestione, convocando dirigenti, direttori di rete e quant'altro. L'idea di fondo è quella di controllare la RAI, garantire che sia pluralista, garantire che tutti abbiano accesso alla televisione pubblica. Grazie Giuseppe Busia, così abbiamo parlato della Commissione di Vigilanza RAI. Roberta Giordano vi dà appuntamento con il prossimo Dizio Radio a lunedì. Pesante calo per le borse, i leader europei si consultano, arriverà una dichiarazione per placare i mercati. Questa sera l'Ecofin con la proposta italiana per il fondo anticrisi. Errore di valutazione, ammette intanto l'amministratore delegato di Unicredit. Il titolo a Piazza Affari prima sospeso per eccesso di ribasso e ancora negativo, ma fra i migliori del listino principale. Un'altra vicenda finanziaria sotto i riflettori, intanto oggi dovrebbero arrivare le richieste dell'accusa nel processo Parmalat. Il PM come una brutta vicenda di mafia. A gennaio gli scontri con la polizia per la discarica di Pianura, ora gli arresti 35 in tutto e fra gli indagati c'è anche l'assessore alla protezione civile di Napoli. Hanno scoperto il virus dell'HIV e del papilloma, premiati oggi col Nobel due francesi e un tedesco. Si è tolto la vita per dare un segnale, così ad Ixelles il fratello del professore messinese che denunciava le collusioni fra politici e mafia. Addio Los Angeles, Bombay mi aspetta, Steven Spielberg divorzia dalla Paramount Pictures e sceglie Bollywood. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. Se volete potete scriverci extralarge@radio24.it e riascoltarci www.radio24.it. Per la diretta l'appuntamento è domani alle 13. GR24, il sole 24 ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.